Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, eccoci ritrovati di nuovo insieme. Allora, ad ottobre scorso erano circa 80.000 le famiglie che avevano beneficiato a partire dal 2010 della cosiddetta moratoria ABI, quell'operazione che ha permesso di sospendere per le famiglie in difficoltà le rate del mutuo. Dal 2010 sono state varate 4 proroghe rispetto alla prima operazione. La scadenza ora è per la fine di questo mese di gennaio e sono già in tanti a chiedersi se potranno esserci nuove iniziative di aiuto per chi ha vissuto un evento tale da impedire o rendere molto dura la restituzione del suo prestito. Appare certo, lo dice anche questa mattina il Sole 24 Ore, che la moratoria possa diventare una misura di tipo strutturale proprio a partire dal prossimo mese di febbraio. Fra un po' dai tecnici dell'ABI ce lo faremo confermare o meno. In ogni caso, per chi ancora può aderire all'operazione in corso, c'è tempo fino al 31 gennaio per presentare le domande di sospensione appunto del mutuo che si sta restituendo. L'accordo, lo ricordiamo, era stato previsto dall'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione dei Consumatori nell'ambito di una più ampia iniziativa denominata Piano Famiglie. L'intervento prevede la sospensione del pagamento delle rate previa richiesta del cliente per almeno 12 mesi e per una sola volta. Salva Danaio oggi torna a spiegarvi le modalità e i requisiti necessari per accedere a questa sospensione, rispondendo anche alle domande degli ascoltatori che sono in difficoltà, e c'è da scommettere che sono sempre di più anche i dati della disoccupazione che abbiamo dato ieri. Commetteremo però anche un altro tema, il tema del giorno, che anche in questo caso abbiamo visto oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore. Il costo del denaro è ai minimi, sta spingendo al ribasso il costo dei mutui in tutta Europa, ma la tendenza non si verifica esattamente secondo la dinamica europea in Italia, dove invece il tasso medio sui mutui supera il 4% contro una media europea del 3,35%. Quindi tanti temi da affrontare, come sempre secondo anche le indicazioni che ci darete voi all'800 24 00 24. Potete commentare con noi appunto queste situazioni, sia che andiate in banca a chiedere un mutuo e la banca vi dice no, se invece vi è stato accordato, che tasso vi è stato praticato, e poi naturalmente se siete in difficoltà e siete intenzionati a chiedere la sospensiva, vi daremo appunto i parametri, naturalmente soprattutto le indicazioni per poterlo fare. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno a Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, benvenuto e buon anno. Buongiorno, un augurio a tutti. Naturalmente abbiamo anche l'ABI, credo che sia già collegato, eccolo qua, telefonicamente con noi, Angelo Peppetti dell'Ufficio Crediti dell'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Peppetti, buongiorno, buon anno. Buongiorno, auguri anche a voi. Spero che ci raggiunga tra poco il nostro Maximilian Cellino, collega del Sole 24 Ore, che sta arrivando. Allora, proprio questi tassi di interesse, Roberto Anedda, cominciamo subito a toglierci questo sassolino dalla scarpa. Sono tanto bassi, sono così bassi che hanno portato appunto i tassi di interesse ai minimi anche sui finanziamenti erogati a famiglie ed imprese. Oggi ne riparla il Sole 24 Ore, e però a quanto pare questi tassi di riferimento così bassi non si riflettono altrettanto appunto nei prestiti che le banche riescono ad erogare alle famiglie. Quantomeno questo non succede in Italia. Non sono poi dei livelli i tassi non sono poi così virtuosi per i prestiti appunto alle famiglie in Italia, perché si paga di più rispetto al resto d'Europa. Ci potete confermare questa tendenza anche voi che intermediate mutui a rota di collo? meno a rota di collo spalzato, però prima, ma effettivamente sì. La tendenza purtroppo è quella che vediamo ormai da un anno e mezzo, ed è dettata proprio dal fatto che a suo tempo invece lo spread di cui parliamo adesso, cioè quello dei titoli di Stato, fosse salito così tanto. L'intero sistema Italia, quindi comprese anche le banche, erano viste in maniera poco fiduciosa da parte del mercato, che quindi chiedevano un sovrapprezzo per il prestito di capitale o allo Stato italiano o anche alle banche italiane. Quindi gli spread che le banche italiane stanno facendo pagare sui mutui sono ancora legati a quei costi di capitale. Tuttora purtroppo ci sono diverse banche italiane che, quale più quale meno, pagano anche cifre superiori addirittura a questi spread medi, perché poi lo spread e una media. All'interno di quelle ci sono banche che riescono a pagare il capitale un po' meno ed altre che purtroppo, per la propria situazione patrimoniale, societaria, generale, sono viste dal mercato come ancora, diciamo così, instabili, utilizzando un termine magari un po' troppo negativo, che non vuol dire che la banca debba chiudere. Semplicemente dal punto di vista patrimoniale, dei suoi asset, della sua redditività ottimale, per il mercato quell'istituto, quel singolo istituto, è messo peggio di altri e quindi il denaro per quegli istituti costa ancora di più. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere gli spread sui mutui, anche tuttora, tra le banche italiane troviamo spread intorno ai 300 punti, anche sopra il 300, un 3% come media, anche sopra, ma anche banche che applicano spread vicini addirittura ai 500 punti, cioè addirittura al 5%. Quindi il minimo è il 3% comunque. Sì, il minimo è proprio il 2,80. Tanto per fare un calcolo al volo rispetto ad un Euribor a tre mesi che stamattina non mi ricorda quanto si collocava. 0,18, quindi praticamente raso terra. Quindi esatto, abbiamo un tasso minimo di riferimento per un mutuo a tasso variabile in questo momento del 3%. Il tasso è praticamente unicamente spread. Esatto, infatti stavo dicendo la stessa cosa, incredibile. Si paga solo lo spread. Sicuramente questo segnale dell'asta di oggi e di uno spread che stabilmente tende a mantenersi sotto i 300, se si protrarrà nel corso del tempo e quindi darà maggiore sicurezza al mercato, certamente potrebbe rifletterà positivamente anche, anche sulla raccolta delle banche sul costo e quindi anche sul costo di finanziamento. Maximiliano Cellino, ciao, buon anno. Buongiorno anche a te, bentornato. Allora, tu racconti questa mattina sul Sole 24 Ore: in Italia il conto resta salato, in Europa il tasso medio dei tassi applicati ai mutui tocca il livello più basso di sempre al 3,35%, in Italia è al 4%. Questa media racconta che cosa, che tipo di rilevazione individuo, cioè che tipo queste di... sono le rilevazioni di Banca d'Italia sui nuovi prestiti, quindi non sui mutui che uno ha, no, infatti quelli che ci sono, bisogna sempre chiarirlo, hanno tassi che sono veramente ai minimi in questo momento, perché abbiamo detto che l'Euribor è praticamente raso terra. Chi ha fatto un mutuo a tasso variabile qualche anno fa con uno spread inferiore all'1% adesso paga anche tassi inferiore all'1%, per cui diciamo quasi niente. Questo vale, i problemi valgono per chi li fa adesso, perché aggiungo rispetto a quello che diceva Roberto Nedda prima, si paga tutto spread, sì, adesso, perché se la situazione migliora, chi andrà a fare un mutuo si spera che troverà mutui con spread via via sempre più bassi, ma chi l'ha fatto in questo momento, se la situazione migliora, aumenteranno anche gli Euribor, perché non possono rimanere a zero. Ricordiamo che un tasso medio è tra il 2 e il 3% dell'Euribor, se a questo si assomma uno spread del 3% si arriva a quel 5% che ha fatto scattare l'allarme nel 2008, tutti infatti, ci ricordiamo. Quando insomma, gli spread erano davvero sull'otto volante, erano proprio schizofrenici, l'abbiamo tante volte definiti in questa maniera. Scusate, stavo intanto cominciando a leggere gli sms degli ascoltatori. È vero l'ABI che ha sospeso, è vero che l'ABI ha sospeso le surroghe, ci chiede un ascoltatore. Io direi che più che altro è proprio il mercato che le ha sospese in una autodisciplina, non sono necessarie adesso perché nessuno va a surrogare a Nedda. Sì, il mutuo sono cioè, più alti rispetto a quelli che c'erano fino a un anno fa. Uno quindi... se surroga è perché trova un mutuo più conveniente, esatto, sul mercato, ma è difficile, quindi non è che ci sia stata un'iniziativa istituzionale dell'Associazione delle Banche Italiane, proprio che in questo momento nessuno le chiede al ritmo in cui le chiedeva nel 2008, che è quel periodo che citavamo poco fa. Ma ecco, poi il dato è eclatante, perché un anno fa le surroghe contavano quasi il 40% delle erogazioni totali di mutuo. Ancora adesso, un anno fa addirittura. Sì, un anno e mezzo fa, fino alla metà diciamo del... Fino alla crisi, diciamo. Esatto, sì, fino alla crisi, fino al giugno dell'anno scorso. È lì che proprio c'è il cambiamento, anche il cambiamento degli spread che abbiamo visto, gli spread che adesso vediamo superiori al 3% medio, prima erano di poco superiori all'1%. Hanno fatto un balzo da lì, dal giugno, diciamo dall'estate, dalla fine dell'estate, dal settembre 2011 fino al febbraio 2012. Sì, no, 2011. Fino al febbraio 2012, in 4-5 mesi sono balzati, sono triplicati da poco più dell'1% a un massimo medio rilevato appunto da mutui online sui mutui a 20 anni a tasso variabile che è di circa il 3,6%. Lì poi si sono stabilizzati, però il 3% rimane uno zoccolo duro al di sotto del quale non si riesce ad andare. E tornando alla domanda precedente, è questo il problema dell'Italia in questo momento, l'handicap dell'Italia rispetto ad altri paesi. Bisogna poi chiarire rispetto a quanto scritto oggi sul Sole, l'abbiamo anche chiarito all'interno dell'articolo, che fare confronti tra paesi è sempre un piuttosto complicato, certo, magari anche ovvio, dopo l'ABI ce lo ricorderà, perché i prodotti sono differenti. Però è anche abbastanza chiaro, se uno si guarda la serie storica, dica che in Italia siamo passati, per esempio, dall'inizio del 2008 a tassi medi del 2 qualcosa per cento al 4 e qualcosa per cento, e la Germania ha avuto un movimento inverso, cioè si è passati dal 4%, perché in Germania poi ci sono tassi mutui appunto diversi, al 2,98%. Non parliamo della Finlandia, dove si paga mediamente meno del 2%. E allora noi però guardiamo l'erba del vicino, che è sempre più verde. Angelo Peppetti, ancora buongiorno e di nuovo buon anno. Andremo magari al tema della sospensione della moratoria nella seconda parte di Salvadanaio. Direi che per questa prima parte forse è più interessante continuare a commentare un po' le condizioni di mercato attuali. Che cosa ne pensa dell'inchiesta del Sole di questa mattina? Chiaramente raccontiamo di una situazione che già si conosce piuttosto bene. È davvero così quello che diceva Maximilian Cellino? Noi non possiamo andare al di sotto di un certo livello, anche perché appunto proprio le condizioni, le tipologie di mutuo erogate in Italia sono piuttosto differenti dal resto d'Europa? Ma guardi, diceva giustamente Max Cellino, fare un confronto in questo momento tra i vari mercati sui mutui è veramente poco senso. Noi paghiamo, per fare un ordine di idee, il costo della raccolta 3 volte di più di quanto ne pagano le banche tedesche e 2 volte di più, il doppio di quanto ne pagano le banche francesi. Occorre poi, il costo della raccolta è un elemento, occorre considerare che l'ultimo anno c'è stata una penalizzazione fortissima nei confronti delle banche, un incremento della tassazione che ha portato la nostra tassazione a 15 punti percentuali in più rispetto alla media europea. C'è una regolamentazione avversa che non ha pari a livello internazionale. Le banche, ricordiamo, non possono collocare conti correnti collegati ai mutui, polizze assicurative collegate ai mutui, che hanno comunque comportato un freno all'erogazione dei finanziamenti, perché non è più possibile sostanzialmente coprire alcuni determinati costi e remunerare in maniera corretta il rischio rendimento correlato al mutuo. Ci aspettavamo, in un periodo in cui vi era una frenata di erogazione del mutuo, delle regolamentazioni che favorissero l'erogazione del mutuo, e invece per fini forse più di propaganda che tecnici, che poi vediamo i risultati, hanno determinato un ulteriore freno al finanziamento. Vorremmo semplicemente un ordinamento sui mercati, sui nostri mercati, pari a quello degli altri paesi. Prendete quello che vi pare, prendete un mercato qualsiasi in Europa, sceglietelo voi e portatelo in Italia. Vorremmo quella regolamentazione, qualsiasi mercato. Ecco. Qual è quello particolarmente virtuoso, Maximilian Cellino? Sì, l'abbiamo presa un po' alla larga. Io tutte queste attenuanti alle banche italiane le abbiamo concesse. La cosa che noto è che negli ultimi mesi la situazione sul mercato del funding, della raccolta, perché ricordiamo che la banca li prende da qualche parte il denaro e poi lo passa, lo rivende, diciamo, così in soldoni lo trasferisce alla clientela e quindi ci applica anche un ricarico. Se lo prende caro, se io compro delle mele a 2 euro non le posso rivendere a 1 euro e mezzo sostanzialmente. Prima le comprava a 1 euro, le rivendeva a 1 euro e mezzo, adesso non posso fare, le compro a 2 euro e le vendo a 3. Sostanzialmente anche il denaro è una merce, insomma anche i mutui funzionano sotto, in questa maniera. Quello che volevo chiedere un po' a Peppetti e in generale alle banche, il discorso che si fa alle banche, quindi la anche situazione Danetta, sul mercato interbancario è migliorata in questi ultimi mesi. Noi vediamo banche, diciamo le più grandi, Intesa e San Paolo e Unicredit specialmente, ma anche le medio grandi, che vanno sul mercato, emettono delle obbligazioni, trovano del denaro già di nuovo a tassi, vorrei dire, decenti. Hai proprio citato due decenti colossi che sul fronte mutui stanno ancora dicendo, ecco, dei no molto non vedo ancora questo miglioramento nei confronti trasferito alla clientela. Probabilmente ci vorrà del tempo e magari appunto lo vorrei già vedere in questi mesi e nei prossimi. Certo, abbiamo ancora situazioni di tensione con le elezioni, non vorrei allargare troppo il discorso, però già il miglioramento c'è stato e sono già diversi mesi. Comunque le banche non sono in campagna elettorale. Sentiamo Peppetti. Chiaramente la riduzione per esempio dello spread che si è avuto sui titoli di Stato, che è correlato poi al costo della raccolta per le banche, si è avuto da una quindicina a 20 giorni sotto quota 300. Ovviamente c'è stato un piazzamento di un bond da parte di una grande banca la settimana scorsa, anche se si trattava di 1 miliardo, ma insomma voglio dire gli effetti si potranno vedere sicuramente tra qualche settimana saranno sicuramente positivi. Rimangono però tutti gli altri vincoli che frenano comunque le erogazioni del mercato, perché noi, ripeto, ci siamo soffermati molto e giustamente sul costo della raccolta, che è un elemento eclatante, ma il resto delle regolamentazioni avverse vanno a frenare in maniera notevole le erogazioni del finanziamento. Dovremmo e dobbiamo porci l'attenzione, lo dovrà fare il prossimo governo, di decidere se effettivamente sia ha un atteggiamento più aperto, meno pregiudiziale nei confronti della volontà di voler spingere a sviluppare nuovamente l'erogazione dei mutui. Ripeto, in questo momento occorre prendere in considerazione come benchmark qualsiasi altra regolamentazione a livello europeo sui mutui ipotecari. La nostra è particolarmente penalizzante e si riflette soprattutto nei confronti di quelle banche che forse hanno ancora difficoltà e ne avranno ancora difficoltà ad approvvigionarsi sul mercato internazionale. Una riflessione anche da parte di Roberto Nedda, poi ho la prima pausa, un minuto di tempo. Sì, diciamo che il problema è anche quello che fino a che anche solo una parte di istituti, anche magari importanti, italiani, risentono ancora di questi freni, cioè quindi costo della raccolta, altre capacità di revenue limitate, chiaramente l'accesso al credito si limita, perché alcune banche, anche grosse, anche durante tutto il periodo di crisi hanno comunque mantenuto un canale aperto con la clientela e anche se a spread più alti erogato mutui, altre purtroppo nei momenti peggiori hanno chiuso praticamente i rubinetti e tuttora una parte di queste banche non sono ancora a pieno regime, quindi inevitabilmente le banche restanti, anche se riescono a ottenere capitale a costi più contenuti di prima, non sono in grado di far fronte a tutta la richiesta di credito che il sistema, sia famiglie che imprese, porta alle banche stesse, e quindi avremo sempre una carenza di credito fino a che questo, diciamo, benessere, chiamiamolo così, o situazione migliorata non si estende nuovamente a tutto il panorama bancario italiano. Vorrei sentire Francesco da Milano all'800240024. Francesco, buongiorno, buon anno. Buongiorno a tutti e buon anno, da parte mia. Cerco di essere brevissimo. Stipulato un mutuo con la Melior Banca e nel frattempo ho perso il lavoro, no? Dopo 6 anni che pago ho perso il lavoro ad agosto e sono rimasto disoccupato, certo, perché è fallita la ditta presso la quale lavoravo. Quindi insomma situazione che si può stradocumentare, direi, non è che se la inventa. Sì, stradocumentare, sì. Beh, io ho provato, tra l'altro, apro una piccola parentesi, la Melior Banca nel frattempo ha ceduto il pacchetto dei mutui, io la dico così alla mia maniera, alla Borromeo Finanze, ecco. Io chiamo, contatto la Melior Banca mi dirotta alla Borromeo Finanze, la Borromeo Finanze contattata da me mi dice che c'è un'ordinanza, magari ordinanza non è neanche la parola giusta, dell'onorevole Forleo che ha bloccato di fatto questa iniziativa, no? Per cui il mutuo non può essermi sospeso. Guardi, fino a che l'onorevole Forleo, chi per essa, si decida a riaprire questo tipo di iniziativa, no? Io vorrei sapere, è vero o non è vero? Oppure mi ha raccontato... Direi proprio di sì, io penso proprio che nell'ambito bancario la signora Fornero ha fatto tanti interventi negli ultimi anni, una corposa riforma del mercato del lavoro, per non parlare di quella sulle pensioni, ma io credo proprio che nell'ambito mutui non sia intervenuta. Allora Peppetti, come lei sa, tutte le volte che viene a Salvadanaio la rosa delle giustificazioni che le banche che non vogliono sospendere adotta è sempre piuttosto eterogenea, anche un po' folcloristica, qualche volta questa scusa è la più originale di tutte, direi, tra tutte quelle che abbiamo ascoltato. Detto questo, è plausibile che possano avere, come dire, adottato come giustificazione un legame con la riforma del mercato del lavoro? Adesso io la voglio rendere ancora un po' più dignitosa, la giustificazione data dalla banca. Che ne pensa? Guardi, allora, il tema è molto semplice. Bisogna fare riferimento alla sospensione o come iniziativa autonoma o con iniziativa di legge, che era determinata dal cosiddetto fondo Gasparrini. L'iniziativa di natura autonoma, quella firmata da ABI con l'associazione dei partecipanti, che ha visto un'adesione del 92%, non ha visto l'adesione di quella banca che è stata, citata dall'ascoltatore, che è stata citata dall'ascoltatore che ha telefonato. Tuttavia, la stessa banca, pur non avviando questa iniziativa con ABI, doveva sospendere in funzione del fondo cosiddetto Gasparrini, cioè il fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa, che è stato tuttavia modificato con la legge di di riforma del mercato del lavoro. Ecco a cosa si riferisce. Ah, ecco, quindi al fondo Gasparrini a cui si riferisce, che è l'iniziativa parallela per un certo periodo alla moratoria dell'ABI. Mm. Esatto, il fondo che è stato recentemente rifinanziato, perché attenzione, si era bloccato per assenza di fondi, in realtà non è ancora operativo in assenza di un regolamento che attende il parere delle commissioni parlamentari, anche se è un parere non vincolante, e un parere che può essere rilasciato anche se, diciamo, il governo svolge una funzione cosiddetta ordinaria, di ordinaria amministrazione, quindi anche in relazione a un governo dimissionario. Quindi noi attendiamo a breve l'emanazione di questo regolamento che possa far riavviare a livello strutturale l'iniziativa di sospensione, quindi a livello governativo, quindi a prescindere dalle banche che aderiscono alla nostra iniziativa, che ripeto, attualmente sono il 92% del totale del sistema, dovranno tutte aderire perché è una disposizione di legge. Allora, preso atto che la banca ha dato all'ascoltatore la giustificazione e la risposta corretta, lei però ci diceva appunto la banca avrebbe dovuto, adesso a prescindere da questo stop determinato dal fatto che aspettiamo nuove indicazioni appunto dal Dicastero del Lavoro, lei dice comunque la banca avrebbe dovuto sospendere il piano di restituzione dell'ascoltatore, quindi no, dovrebbe aver dovuto, perché non ha partecipato alla nostra iniziativa. Alla vostra, no, mi sì, intendo l'altro. Cioè, lei deve farlo se partecipa e aderisce alla nostra iniziativa ABI, sì. Associazione dei consumatori. Benissimo, ma se invece Francesco avesse fatto la richiesta di sospensione del mutuo facendo leva sull'iniziativa Gasparrini, sul fondo di solidarietà Gasparrini, la banca deve dire sì? Deve dire sì, assolutamente. Se ha tutti i requisiti, naturalmente, Francesco. Deve assolutamente dire sì, ovviamente se funziona a fondo. In questo momento non funziona. Non funziona, quindi. Francesco, quindi insomma la banca le ha dato la risposta corretta, perché allora magari è il caso di ricordare, Maximilian Cellino, qui chiedo aiuto a te, che cos'era questo fondo di solidarietà, appunto, che porta il nome della presidente di Federcasalinga, appunto Federica Rossi Gasparrini, come si è mosso parallelamente anche alla moratoria dell'ABI? Ma diciamo che i due interventi erano simili, ma con qualche differenza abbastanza significativa. Intanto l'accordo dell'ABI, diciamo la differenza sostanziale è che il fondo Gasparrini funzionava e funziona tuttora come un fondo finché c'è denaro. Denaro che doveva essere messo da parte dei governi precedenti può funzionare. Ha funzionato nei primi mesi, raccogliendo credo quasi una cifra quasi fino a, vicina agli 8.000, ha concesso circa 8.000 sospensioni, poi ha semplicemente finito i 20 milioni di euro, mi pare, che erano disponibili, che erano stati dati per i due anni. È la cifra credo uguale a quella del bonus bebè di cui abbiamo parlato ieri, chiusa parentesi, il voucher IMSS, comunque, viaggiano su queste cifre mediamente le iniziative pubbliche. Poi come una carta ricaricabile, oggi sono con queste similitudini, sì. È stato ricaricato questo fondo, nel senso ci sono stati messi dentro altri 10 milioni di euro per un anno e 10 milioni per un altro, però al tempo stesso è stato deciso di correggere qualche il tiro un po' sul fondo Gasparrini, perché aveva le maglie leggermente più larghe rispetto a quello dell'ABI, che sostanzialmente è stato utilizzato da chi ha perso il lavoro. Ed è stato utilizzato, parlo del fondo Gasparrini, anche da qualcuno che probabilmente non ne aveva bisogno. Riguardava delle spese per ristrutturazione dell'abitazione, su cui qualcuno probabilmente ci ha fatto un po' la cresta. Riguardava anche un'altra cosa molto importante: pagamento di spese mediche e o di assistenza domiciliare. Esatto, questa era una cosa molto importante e interessante, perché all'interno di questo finivano le persone che non sono autosufficienti, per il quale bisogna pagare, cioè le famiglie che devono pagare una persona non autosufficiente all'interno dell'abitazione possono avere dei problemi, e soprattutto se questa sopraggiunge in un certo momento. Poi il discorso delle spese mediche era molto largo, chi si risistema i denti, cosa che comporta una spesa molto importante, forse ha meno diritto, certo, di una sospensione di chi ha una persona in casa che non è autosufficiente. Quindi diciamo che il fondo di solidarietà 360 gradi, esatto, non è stato, utilizzato solo da chi doveva sospendere il mutuo, ma anche da chi aveva altre emergenze economiche. È stato corretto il tiro, certo, in questo caso, però appunto mancano ancora dei regolamenti attuativi che lo rendono di fatto inutilizzabile. Mm-mm. E questo fondo, ricordiamo che è importante, perché se, come si diceva in precedenza, il piano famiglie dell'ABI era una misura tampone che poi è stata procrastinata più volte e rischia di diventare definitiva, il fondo in teoria è una misura permanente, basta soltanto rifinanziarlo anno dopo anno con 5-10 milioni di euro, nemmeno una cifra esagerata per le nostre finanze. Allora, Roberto Anedda, volevo anche da te un commento. Tra l'altro abbiamo detto appunto che l'ascoltatore non è stato accontentato dalla banca, perché appunto ha chiesto di utilizzare le risorse del fondo di solidarietà, ma non è detto, nel caso di Melior Banca che ha ceduto il suo pacchetto di mutui, ma come potrebbe essere anche per un'altra banca che dice: io guarda, non voglio farti sospendere il mutuo in base all'iniziativa istituzionale dell'ABI o in base al fondo di solidarietà, però la banca potrebbe anche agire individualmente. Qualche volta noi diamo anche questo suggerimento agli ascoltatori, senza far leva su queste iniziative pubbliche, fare una chiacchierata un po' più, come dire, franca con il direttore, magari può anche prendere questa iniziativa autonoma, anche se magari gli dicono dall'alto, può capitare ovviamente anche questo. No, questo sicuramente. Purtroppo il fatto stesso che ci sia un 8% di banche che non hanno aderito all'iniziativa ABI, Associazione dei Consumatori, per quanto arrivi dall'ABI stessa, la dice lunga come a volte, insomma, le banche siano tante, ce ne sono certe che hanno un certo profilo anche di attenzione sociale, altre che magari invece devono più guardare i numeri, magari insomma Miglior Banca anche ha attraversato tutta una serie di vicissitudini non propriamente positive, quindi purtroppo è anche la sfortuna a volte di scegliere un istituto, certo magari non era uno di quelli più papabili o consigliabili per fare un mutuo, però del resto il povero Francesco o tanti altri nel dover scegliere a volte non sanno bene come orientarsi, e un'offerta che inizialmente può sembrare interessante riserva spiacevoli sorprese magari anche anni dopo, quando uno non se l'aspetta. Certo. Allora, intanto stavo cercando di capire un po' quali sono le domande che ci stanno facendo i vari ascoltatori. La concessione della proroga è lasciata alla discrezione di ogni singola banca, ci chiede Anna, che non so se intenda il fatto che, avendo già usufruito una volta della sospensione, la banca stessa possa prorogare o meno un'iniziativa di sostegno a questa famiglia. Direi che per chi aderisce, dottor Peppetti, vengo a lei, per chi aderisce alla moratoria dell'ABI, appunto quasi tutto il sistema bancario italiano ha per legge l'obbligo di non riconcedere una nuova sospensione, mi pare che sia così. Sì, noi quando parliamo di proroga ovviamente parliamo di ampliamento della finestra per presentare la domanda, ma non la possibilità di risospendere nuovamente un mutuo che già ha avuto questa, diciamo, agevolazione, perché ovviamente noi abbiamo anche dei vincoli di natura regolamentare, il nostro vigilante ci impedisce di fare una serie di continuazioni di sospensione che potrebbero essere anche viste come un atteggiamento strumentale della banca di coprire eventuali insolvenze nel bilancio, quindi è una misura che può essere utilizzata una volta soltanto. Mm-mm. Allora andiamo a Riccardo da Roma, l'800240024. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità. Grazie a lei. Io, ecco, come aveva anticipato, mi trovo nelle condizioni di aver per fortuna trovato, scusi il gioco di parole, un nuovo lavoro, e quindi a 3 mesi dalla sospensione del mutuo volevo capire come immagino, se adesso mi verrà riattivata la debito sul conto corrente. E poi avevo anche una domanda per conto di un amico: nel suo caso lui ha difficoltà a pagarlo questo mutuo, ritardi continui, quindi volevo sapere se lui può fare richiesta per queste motivazioni. Ha perso il lavoro il suo amico Riccardo? Non ha perso il lavoro, però ha difficoltà a pagarlo. Lo so, purtroppo qua, sa com'è, le condizioni sono molto stringenti. In realtà uno degli eventi che deve essersi verificato affinché si possa fare questa domanda è proprio o la perdita del posto di lavoro o la cassa integrazione, o deve essere mancato appunto un familiare, per cui ci sono 3 requisiti al di fuori dei quali non si può andare. Purtroppo l'amico di Riccardo può ricadere nei casi in cui la chiacchierata col direttore può magari risolvere qualche questione. Peppetti, vengo a lei. Allora, Riccardo ha ritrovato lavoro, l'ha ripreso attesa dei pagamenti scatta in automatico o di sua iniziativa l'ascoltatore deve andare in banca e dire guarda, oppure può marciarci, far finta di niente e continuare magari così a beneficiare, a godere di questo respiro che la banca gli ha concesso anche se è ritornata a lavorare? Guardi, la banca ovviamente non sa che il cliente ha riacquistato il posto di lavoro perché non c'è un collegamento diretto con l'INPS, quindi è il cliente che deve autonomamente, se vuole, presentarsi allo sportello e dichiarare di voler interrompere la sospensione ed avviare nuovamente. Certo, quindi può farlo, ma non deve per legge, diciamo, ecco, per essere chiaro. Però, insomma, Riccardo, solo tolga questo pensiero, riprenda a pagare, perché sono tutte cose che poi non si ritrova sul groppone fra qualche altro, almeno per me. Peppetti, ci dica un po', questa misura diventa strutturale? Come ci spiega meglio, come indica Giuseppe Chiellino stamattina sul Sole 24 Ore, come potreste organizzare un nuovo piano di sospensiva costante e perenne agganciandovi proprio al preesistente fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa che abbiamo ricitato prima di nuovo? Guardi, allora occorre fare una premessa in primo luogo che è un'iniziativa che ha avviato soltanto l'industria bancaria ed è un'iniziativa di sostegno delle famiglie che, ripeto, soltanto una categoria imprenditoriale, che sono appunto le banche, ha avviato. E sappiamo che se una famiglia perde il posto di lavoro, fermo restando potrebbe non avere un mutuo, ma ha anche altre cose da pagare, bollette o ad esempio l'affitto, là non ci sono paracaduti. Ecco, il tema della tutela in realtà dovrebbe essere basata su iniziative del governo, dello Stato, piuttosto che appoggiarsi su specifiche iniziative di categorie imprenditoriali, peraltro in questo caso nel nostro paese avviate soltanto dall'industria bancaria. Il nostro obiettivo è quello di rendere strutturale l'iniziativa, ma appoggiandosi su strumenti dello Stato. Ecco, però siccome questa nuova proroga termina il 31 gennaio e fino al 24 febbraio ho idea che tutte le forze politiche abbiano altri temi dei quali occuparsi, magari, come dire, vivremo in una condizione di interregno nella quale molte famiglie non troveranno risposte da parte delle banche se non parte qualcosa di molto importante appunto da parte del sistema bancario. Dobbiamo di nuovo chiedere all'Associazione dei Consumatori che si facciano promotrici di un'iniziativa forte dei vostri confronti, Peppetti? Guardi, noi abbiamo già avviato un dialogo che peraltro è stato sempre in questi ultimi anni molto costruttivo con le associazioni dei consumatori. Le banche non hanno alcun interesse ad avviare delle procedure di recupero nei confronti degli immobili, dei propri clienti, per le motivazioni numerose che più volte abbiamo anche indicato in questa anche sede da qua, sì. Valutato. Quindi sicuramente c'è un interesse per quanto riguarda le banche a sostenere comunque il mutuatario che temporaneamente non ce la fa a pagare le rate del mutuo. Avremo a breve degli incontri con le associazioni dei consumatori, sono convinto che le soluzioni riusciremo a trovarle. Insomma, non posso anticiparvi nulla perché non so nulla in questa sede, perché non abbiamo ancora avviato le interlocuzioni. Comunque l'obiettivo del sistema bancario è di farlo diventare strutturale questo meccanismo di sospensione? Ma guardi, il nostro obiettivo è quello di individuare uno strumento del pubblico che consenta un sostegno alle famiglie. Riteniamo che il fondo siccome uno strumento pubblico c'è già, dice lei, perché non farci aiutare da quello? L'abbiamo rinnovato, l'abbiamo trasformato da un fondo che serviva a molti a sospendere il radio del mutuo per comprarsi la Iacuzzi, perché sono state le situazioni, e che peraltro non consentiva ad esempio la sospensione, la perdita del posto di lavoro. Era stato più prudente Maximilian Cellino, sono contenta che lei invece ci dica. Ristrutturazioni un po' pittoresche, ma qua invece perché noi andremo anche ad indagare su questa cosa, perché con tutta la gente che c'è in difficoltà in giro, se lei mi dice che questo fondo è stato utilizzato con delle derive di questo tipo, non ci piace per niente, se chiederemo. Ma prevedeva ristrutturazioni, all'interno non possiamo andare a vedere se è una ristrutturazione o è una volontà di una miglioria all'interno dell'appartamento, questo è il problema. Abbiamo risolto questo problema perché abbiamo previsto che riguardi soltanto chi effettivamente, a prescindere dal contratto di lavoro, attenzione, questo riguarda anche i contratti di lavoro, diciamo, non a tempo indeterminato e per qualsiasi tipologia di contratto, quindi abbiamo abbracciato tutte le categorie lavorative, riteniamo che abbiamo individuato tutte le categorie giuste per coprire e tutelare più possibile i mutuatari. Ci saranno sicuramente dei problemi di budget, ma insomma io ritengo che sia uno strumento importante di welfare nei confronti dei mutuatari, e che giustamente poi, rientrato nella riforma del lavoro, proprio perché visto come un sistema di welfare, e riteniamo che sia lo strumento giusto, che riguardi non solo le banche che vogliono aderire, che ripeto sono il 92% in questi casi, ma tutta l'industria bancaria. Devo stressare ancora Peppetti con un'altra domanda. Voglio sapere se avete intenzione di intavolare una discussione anche per cercare delle aree di salvaguardia per quelle famiglie che hanno già usufruito della sospensione ma non possono ritornare a pagare un 25% della platea che avete già servito in questi ultimi tre anni. Ecco. Le banche già adesso hanno avviato un'iniziativa per sostenere le famiglie che non ce la fanno a seguito del pagamento delle rate del mutuo. Occorre ovviamente verificare se poi il mutuatario è in una situazione di insolvenza non retroattiva, come dire, oppure sia temporaneamente in difficoltà. Se è temporaneamente in difficoltà, ripeto, è tutto l'interesse dell'industria bancaria trovare una soluzione. Allora, Sergio da Padova, rapidamente, buongiorno. Buongiorno, senta, io purtroppo ho fatto la surroga nel momento più sbagliato, da variabile al fisso. Al momento della surroga, secondo me è un mutuo molto importante, il direttore mi ha proposto eventualmente dopo 6 mesi di pagamento regolare di... Quando l'ha fatta questa surroga, Sergio, ci scusi? Nel 2008, quando ha cominciato a scendere ho cambiato. Quando erano tutto al top, Sì, volevo avere una garanzia, perché fino allora è sempre guardi che si trova in buona compagnia, Sergio, non si preoccupi, non è l'unico ad averlo fatto in tutta Italia, comunque... Okay. Comunque lui diceva che in pratica la sospensione coinvolge solo il capitale, non l'interesse. Siccome è un mutuo importante e fra capitale e interesse sono 2.000 euro, per cui pagare per 6 mesi per un prestito in pratica di 12.000 euro, perché 2.000 per 6 devo pagare 6.000 euro di interessi, mi sembrava un po' ma è vero che la sospensione è solo del capitale, non dell'interesse. Io dovevo continuare a pagare l'interesse. È vero. Allora, praticamente, da quello che mi ricordo, il mutuatario può scegliere se pagare gli interessi durante la sospensione o al momento della ripresa dei versamenti. Magari anche Peppetti può confermarlo. Sì. Dipende dalle singole banche. Alcune scelsero di una via, altre. Cioè soltanto di sospendere la tassa. Peppetti, eccolo qua. Il cliente va sul sito dell'ABI, cioè l'elenco delle banche che hanno aderito, e per guardando la sua banca vede se la banca ha scelto l'intera rata o soltanto la quota capitale. Devo dire che mi sembra il 75% delle banche aderenti ha optato per l'intera rata, ma c'è un 25% per la sola quota Sergio capitale. Sergio ha fatto bingo e ha scelto quella invece che non gliela sospende tutta quanta. Allora, Stefano da Bologna voleva informazione per le zone terremotate. Stefano, io le chiedo una cortesia, noi stiamo chiudendo, e ci scriva, perché per questo ambito di persone ancora più delicato di tutte quelle che stiamo ascoltando vorrei dare appunto una risposta più articolata. Mi scusi se l'abbiamo fatta attendere, però ci manca un minuto prima di concludere. Roberto Anedda, se no non ho fatto più parlare. Tendenze per i mutui di questo gennaio 2013 quali sono? Il mercato in generale, a parte i tassi di cui abbiamo parlato all'inizio, le erogazioni sono un po' più corpose dell'ultimo anno? Cominciano lentamente a riprendersi, come dicevamo, dovremo vedere nei mesi successivi se effettivamente si allarga questo beneficio dello spread che si riduce anche ai mutui, alle banche. Certamente vedremo un maggiore dinamismo. Qualche iniziativa da parte delle banche comincia a vedersi, è ancora molto timida, anche loro sono molto quelle che hanno completamente abbassato guardinghe. La serranda l'anno scorso, la stanno ricominciando a sollevare qualcosa, sì, però in molti casi, ripeto, si tratta ancora di banche che non sono ancora entrate in una, come dire, in un orizzonte di acquisto capitale più abbordabile come costo. Però rispetto dai, a prima. Adesso che Basilea vi ha anche alleggerito tutti gli standard per adeguarvi ai nuovi requisiti patrimoniali, anche quello è un insomma, effetto positivo, da, ecco, esatto, anche adesso, la borsa le premia proprio perché le prospettive di redditività e quindi di maggiore potremmo flessibilità avere una per piccola il resto svolta dell'anno sono positive in questo primo scorcio del 2013. Grazie a Roberto Anedda, Maximiliano Cellino, a Angelo Peppetti per essere stati con noi, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, a Pietro Lacorte in assistenza tecnica in un tandem oggi con tutti gli altri. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani. Buona giornata.